Abbiamo sempre detto che la guerra in Siria è una guerra per procura. Questo attacco da parte degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Francia porta direttamente queste potenze ad attaccare la Siria. Già erano impegnate nel fornire armamenti e finanziamenti alle opposizioni e al presidente Bashar al-Assad, e sappiamo come questi finanziamenti poi hanno favorito l'ascesa di ISIS. Però poi c'è un'altra guerra, che è quella sul campo, che vede lo scontro diretto tra Israele ed Iran. In particolare Israele è molto preoccupata per la presenza sempre più forte dell'Iran in Siria, una presenza che è determinata dalla guerra civile siriana, dal fatto che in Siria c'è sostanzialmente da 6 anni o di più il caos, e evidentemente addirittura alcuni in Iran dicono che c'è un dispiegamento più forte di Pasdaran, cioè di esponenti dell'esercito iraniano in Siria, rispetto a quanti erano stati impegnati nella guerra Iran-Iraq. Quindi vuol dire che c'è una presenza massiccia di milizie iraniane in Siria. Non solo, ci sono varie basi iraniane in Siria, una di queste nella periferia di Damasco, l'altra, abbiamo detto, nella periferia di Aleppo, è lì che c'è stata l'esplosione di un paio di giorni fa. Quindi evidentemente una delle preoccupazioni è il rafforzamento dell'asse tra Iran e Hezbollah, che è il movimento sciita libanese che è attivo appunto in Libano, ma è anche attivo nel conflitto, nella guerra civile siriana, e appunto un Iran che è essenziale per gli equilibri del conflitto siriano. Infatti Teheran ha sempre sostenuto il presidente siriano Bashar al-Assad. Ricordiamo due episodi che chiariscono quanto sia importante l'Iran nel conflitto siriano. Uno è questo incontro che c'è stato ad Ankara tra il presidente Rouhani, il presidente iraniano Rouhani, il presidente turco Erdogan e il presidente russo Vladimir Putin, dove appunto si è suggellato questa unione di intenti tra i tre leader nel sostegno ad al-Assad nel mantenere l'integrità della Siria. A quel tempo, ormai è passata una settimana, ma sembra che siano passati mesi, sul tavolo c'era la questione del possibile ritiro da parte degli Stati Uniti delle truppe americane che sono a distanza nel nord della Siria. E l'altro è l'abbattimento del drone che dicono gli israeliani essere appartenuto all'aviazione iraniana. Precedentemente era stato abbattuto un altro caccia, un altro aereo dell'aviazione israeliana. Quindi evidentemente ormai sono tanti gli episodi di scontri sul campo tra Israele ed Iran, e questo può essere una delle chiavi di lettura dell'attacco dei giorni scorsi. Sappiamo che l'amministrazione americana ha cambiato linea da Obama a Trump nei confronti dell'Iran. La ragione risiede nelle richieste di Israele? Sempre Israele si è opposto all'accordo sul nucleare, quindi possiamo inserire questa escalation nei confronti dell'Iran in un contesto più generale, in cui si trovano posizionati i repubblicani, che sono dei noti iranofobici, che hanno sempre criticato l'accordo sul nucleare tra i 5 paesi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Germania e l'Iran, e Israele, che si è sempre posto sulla stessa linea d'onda, sulla stessa argomentazione, cioè quella di criticare questo accordo. Ricordiamo un altro antecedente importante dell'escalation del conflitto in Siria, che è il rimpasto di governo che c'è stato negli Stati Uniti, voluto da Trump, e a sua volta deve affrontare questioni molto importanti inerenti alla politica interna, inerenti ai rapporti con la Russia, e quindi evidentemente la questione dei rapporti tra Stati Uniti e Russia è poi il centro focale di questo nuovo interventismo militare da parte degli Stati Uniti. Però dall'altra parte c'è la questione delle nuove figure, cioè Pompeo e Bolton, che sono state nominate ai vertici dell'esecutivo statunitense, e che hanno subito fatto pensare ad una escalation militare con l'Iran, perché si sono sempre dichiarati favorevoli ad un attacco nei confronti di Teheran. In particolare entrambi hanno fortemente criticato il rispetto da parte degli Stati Uniti dell'accordo sul nucleare. Ricordiamo che Trump alla fine dell'anno scorso ha deciso di decertificare il rispetto da parte dell'Iran dell'accordo sul nucleare. Questo comporterebbe l'imposizione di nuove sanzioni. Già sono state imposte nuove sanzioni a figure dell'establishment politico iraniano. Secondo Trump bisognerà ridiscutere tutto l'accordo sul nucleare, imporre sanzioni più estese all'Iran, includendo anche la questione del programma balistico iraniano, che era stato a Vienna nel 2015 escluso dall'accordo sul nucleare. Quindi evidentemente si è creato negli Stati Uniti un gabinetto di guerra, come dice la comunità iraniana a Washington, cioè sono pronti a avere una linea dura nei confronti di Teheran, e questo noi lo vedremo in maniera chiara il 12 maggio, che è il giorno in cui il Congresso degli Stati Uniti dovrà dire l'ultima parola sul rispetto da parte di Teheran dell'accordo sul nucleare. È molto probabile che il governo Trump, decida di decertificare in via definitiva, e che abbia anche il sostegno del Congresso su questa linea, il rispetto da parte dell'Iran dell'accordo sul nucleare. Questo evidentemente potrebbe comportare un'escalation aumentano nei rapporti bilaterali, e questo avrà degli effetti concreti anche nel conflitto in Siria, perché abbiamo detto che l'Iran è essenziale per la soluzione del conflitto in Siria, perché ha una presenza militare imponente nel paese, perché ha combattuto contro ISIS, ha subito un attacco di ISIS nel giugno scorso, e quindi sicuramente una posizione aggressiva da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran dovrebbe far ripensare al ruolo che questo paese ha anche in altri contesti, in Iraq, in Yemen, in Afghanistan. Quindi evidentemente qui si sta giocando una partita più grande che riguarda i rapporti tra Israele e Iran e che riguarda i rapporti tra Stati Uniti, Russia e Iran. In questi blocchi che si vanno formando, la Turchia dove si colloca? Questo è molto interessante, perché la Turchia, abbiamo ricordato dell'incontro di Ankara, per la prima volta in maniera esplicita Erdogan ha detto di essere allineato sulle posizioni di Russia e dell'Iran di sostegno in qualche maniera al presidente siriano Bashar al-Assad. Quando poi c'è stato l'attacco della coalizione internazionale, Erdogan è subito tornato sui suoi passi e ha detto no, in seguito agli attacchi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia, la Turchia è pronta a ridefinire la sua posizione, cioè all'opporsi di nuovo al presidente siriano Bashar al-Assad. Ricordiamo che in generale la Turchia è stato uno dei più importanti oppositori di al-Assad, ha sempre cercato di sostenere le opposizioni siriane, questo in linea anche con la Fratellanza Musulmana, perché ricordiamo che il partito Giustizia e Sviluppo AKP, cioè il partito di Erdogan, appartiene alla galassia dell'islamismo politico, e tutto l'islamismo politico si è opposto a Bashar al-Assad, considerato invece l'emblema dell'elite militare che è al potere appunto in Siria. E la stessa cosa si può dire per Erdogan, che è sempre stato su posizioni contrarie ad al-Assad, però per interessi strategici, e qui ricordiamo la costruzione del Turkish Stream, ricordiamo il fatto che ci sono stati vari abbattimenti, uno di questi è Sukhoi Su-24, che è avvenuto alla fine del 2015, che ha provocato una crisi seria bilaterale tra Turchia e Russia. Adesso le cose sono cambiate, nel senso che c'è questo allineamento da parte di Erdogan sulle posizioni russe e iraniane, però ancora una volta quando si tratta di decapitare al-Assad, Erdogan torna sulle sue posizioni originali, che sono quelle critiche nei confronti dell'Assad. Ricordiamo due cose: che queste posizioni turche hanno portato da una parte il rafforzamento di ISIS, perché i finanziamenti che sono venuti da Ankara, che dovevano andare alle posizioni siriane, sono alla fine arrivate nelle mani dei jihadisti, e questo ha fatto sì che la Turchia diventasse questa sorta di autostrada del jihad e rafforzasse ISIS, e dall'altra parte ha portato allo scontro diretto con i curdi. Ricordiamo l'operazione Ramoscello d'Ulivo, che si è chiusa il 18 marzo, che ha portato alla conquista, all'occupazione da parte delle forze turche della città di Afrin. E quindi adesso nel nord della Siria c'è una spartizione che più o meno va su questa linea, cioè il cantone di Afrin è controllato dai turchi, mentre i cantoni di Jezira e Kobane sono controllati dalla coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti, che un giorno sì e un giorno no dice che dovrebbe lasciare il campo siriano e quindi dovrebbe ritirarsi. Poi alla fine pare che non ci sarà questo ritiro, soprattutto in seguito all'attacco dei giorni scorsi, ma questo evidentemente fa capire come le posizioni turche siano contrarie all'aspirazione di mantenere un'enclave curda forte in Rojava, e evidentemente anche questo nel lungo termine potrebbe favorire il ritorno di gruppi jihadisti, come è avvenuto nel 2014-2015, quando i turchi non hanno mosso una mano per sostenere Kobane.